24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:31 minuti, eccoci cari ascoltatori, buongiorno, buon venerdì 14 maggio, finisce la settimana per 24 mattino in diretta fino alle 9. E allora di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Il ministro Brambilla, animalista convinta, ha detto la caccia andrebbe abolita. Parliamo di caccia. Forza cacciatori, dovete convincerci che la caccia invece serve, o forza animalisti, convinceteci che no. Secondo voi siete d'accordo, andrebbe abolita la caccia? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 e ora andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali. In primo piano. Il clima del giorno o la parola del giorno è tira una brutta aria per quel che riguarda la politica. Ci arriviamo tra poco, dopo che leggo le aperture del Sole 24 Ore di Avvenire, che sono uguali, sullo stesso tema. Tassa sanità per 4 regioni, mini sanatoria per le case fantasma non censite al catasto, questo in arrivo. Ma la tassa sanità per le 4 regioni, sanità in rosso, rischio tasse per 4 regioni. Questa è l'apertura anche per Avvenire. Le 4 regioni sono Calabria, Campania, Lazio e Molise. Ieri sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i governatori a dire attenzione, il piano di risanamento non c'è, lo vedremo tra poco, e quindi rischio di arrivo di tasse per i cittadini delle vostre regioni. Ma tira una brutta aria perché? Perché questa lista, la lista di Anemone, i 400 circa persone che hanno ricevuto lavori, si dovrà vedere se è tutto in maniera regolare, se in cambio di favori, intanto c'è una lista, e beh, sta creando davvero un putiferio. G8, Anemone collabora per il Messaggero, Anemone prime ammissioni per il Corriere, lista Anemone scossa nel governo per Repubblica. Case, spunta la lista dei VIP per la Stampa. Ma guardate anche Libero e Il Giornale, come sempre da monitorare con attenzione, visto che sono filo governativi. Libero, Silvio, reagisci o finisce male. Il Giornale, case VIP, gli altri 248 nomi della lista. Vedremo invece le aperture di titoli anche molto aggressivi dei giornali più orientati verso l'opposizione. Ma come detto, Anemone comincia a parlare. Lo leggiamo da Marco Ludovico, pagina 17 del Sole. È stato interrogato poco prima della scarcerazione domenica scorsa, una svolta nell'inchiesta di Perugia, perché anche secondo Marco Ludovico ci sarebbero le prime ammissioni. È questa lista. Ora, chi è nella lista ovviamente si difende. A pagina 3 del Corriere, Mancino, per esempio, il vicepresidente del CSM, nessun regalo. Oppure Cesare Buonamici del TG5, sono affittuaria dell'appartamento in via della Vita al 2003, appartamento che è proprietà di un ente, hanno fatto i lavori di ristrutturazione loro. Monorchio, l'ex ragioniere generale dello Stato, vivo in via Sistina ma sono in affitto, i lavori sono stati fatti dal proprietario. Vito Riggio, presidente dell'ENAC, né io, né mio figlio, né parenti o affini siamo proprietari di immobili a Roma. Ora, insomma, questa che secondo alcuni del PDL è stata definita una lista di proscrizione, una cosa vergognosa, finita sui giornali, su tutti i giornali oggi, le trovate. Cioè proprio l'elenco di tutte le persone beneficiate da Diego Anemone, beneficiate probabilmente molti di loro, chissà, magari tutti hanno pagato, certo, però a 32 anni questo Diego Anemone ne aveva di clienti e di clienti eccellenti. E, per esempio, è molto citato anche Guido Bertolaso, che l'Unità oggi mette in prima pagina con il titolo Dimissioni, ha mentito. Perché, scrive il Corriere della Sera, è molto citato in queste, Guido Bertolaso per esempio dovrà chiarire ai magistrati come mai non abbia fatto cenno nel suo interrogatorio a 3 interventi di ristrutturazione effettuati dalla ditta di Anemone. Repubblica, pagina 2, va a intervistare, siccome nella lista c'era via Giulia Bertolaso, allora va a intervistare Maria Elena Vincenzi, chi? Il proprietario di quella casa. Bertolaso e la casa in via Giulia pagava in nero e con strane buste. Quando ho saputo che il mio appartamento l'avrebbe affittato Bertolaso, ero felicissimo, racconta il proprietario Raffaele Curi. Ho pensato che fosse affidabile. Presto mi sono dovuto ricredere. Non sono mai riuscito a contattarlo per fargli firmare il contratto. Il mio interlocutore che mi portava i soldi era un factotum di cui ricordo, non ricordo il nome. Avere le mensilità era un'agonia, i pagamenti mai puntuali arrivavano in strane buste. Ora, alla luce di tutto quello che leggo sui giornali, mi sorge il dubbio che a pagare fosse Anemone. E poi il contratto da 1.100 euro al mese in nero, dice questo proprietario, alla fine ho perso parecchi soldi e con una scusa, quando ho riottenuto l'abitazione mi sono ritrovato con un arretrato di luce, gas, acqua che ho dovuto pagare di tasca mia. Insomma, il clima è brutto. Berlusconi, amarezza e rabbia, licenzierò chi ha sbagliato. È un Berlusconi che viene definito da tutti i giornali, dal Corriere, da Marco Galluzzo per esempio. Prima c'era una volta il garantismo granitico del Cavaliere, ora in una cena con alcuni imprenditori ha detto: sono pronta a licenziare anche dal governo chiunque verrà coinvolto nelle inchieste di magistrati. Non si capacita della leggerezza di tanti nel PDL, a cui la politica ha concesso onori e denari e che invece si dimostrano, da quello che emerge dalle inchieste, alla stregua di ladri di polli. Se la gente mi vota, il ragionamento aggiunto dal Cavaliere in questa cena con gli imprenditori, è perché è consapevole di quanto ho costruito da solo prima di entrare in politica, sa che il mio spirito non può essere la ricerca di un arricchimento. Un Berlusconi definito davvero arrabbiato, deluso. Berlusconi sfinito si chiude in casa e riceve in pigiama. Questo Salvatore Dama su Libero segue sempre le vicende del Premier. Ieri Berlusconi aveva anche una febbre. Situazione economica generale definita drammatica, virgolettata da Berlusconi, ma sono sempre ovviamente retroscena. Chissà poi se oggi arriverà qualche smentita. Silvio non intende fare sconti a nessuno, neanche ai ministri. Ecco qui, ne parlava con gli imprenditori dicendo: non è Tangentopoli, ma sono pronto a licenziare chi in modi troppo disinvolti ha concepito la politica. Ieri c'è stato, perché tira brutta aria? Guardate che ieri per esempio il blitz che c'è stato, una trentina di persone, alcuni si sono vestiti da Robin Hood e si sono presentati sotto la casa dell'ex ministro Scajola, quella in via del Fagutale vista Colosseo a Roma, con striscioni: basta rubare ai giovani per dare ai soliti. Qualcuno appunto impersonando Robin Hood ha tentato anche una scalata, diciamo occupato tra virgolette per qualche minuto la casa di Scajola. Sul Corriere l'ex ministro, qualche virgolettato c'è: ho saputo, è un fatto molto grave, c'erano mia moglie e mia figlia lì dentro, ma non ne voglio parlare, certo prende tutto e va a Imperia, torna nella sua Liguria, si sfoga, non voglio commentare, ma il clima qui a Roma non è dei migliori. C'è Bossi che dice: una strana bufera, sembra preparata. Insomma, allora vediamo alcuni commenti degli editorialisti, questo per far capire, e poi mi direte anche voi se tira una bruttaria oppure no. Il Fatto Quotidiano: sotto la banca la casta campa, di Antonio Padellaro in prima pagina. Mai Berlusconi avrebbe potuto immaginare che le basi del suo onnipotente governo sarebbero state rapidamente corrose non dagli odiati PM, meno che mai dall'opposizione, bensì dalla smodata voracità di corte e cortigiani. Lo descrivono preoccupato, sa perfettamente cosa pensa l'italiano medio, cosa gli ribolle dentro quando legge di un ministro che sostiene di non sapere chi ha pagato l'appartamento, di un coordinatore banchiere che invece di servire il popolo della libertà si fa servire da qualche imprenditore. Lo sa bene il principe dei venditori che non potrai mai vendere un paese spremuto e stressato 25 miliardi di nuovi tagli e nuovi sacrifici se la classe dirigente che promette lacrime e sangue si fa beccare col sorcio in bocca e una miriade di parenti ben foraggiati. Vabbè, dite però, è il Fatto Quotidiano, chiaramente un giornale molto critico nei confronti della linea di governo. Allora andiamo a vedere cosa scrivono Vittorio Feltri e Maurizio Belpietro in prima pagina di Il Giornale Libero. Vittorio Feltri, che pubblica la lista a pagina 2 e 3, la nomenclatura non si accontenta delle auto blu, simbolo di successo politico. Pretende la casa blu, senza la quale non si sente arrivata, gratificata. Esiste un elenco di notabili che si sono fatti ristrutturare l'appartamento dal costruttore Anemone, noto impresario addentro agli appalti pubblici. Non abbiamo certezza che egli abbia agito in modo scorretto, né che i committenti dei lavori siano stati agevolati. La lista però c'è ed è stata allegata agli atti necessari a portare avanti l'inchiesta giudiziaria. Comunque è già un indizio che un numero tanto elevato di uomini politici si sia rivolto allo stesso imprenditore piuttosto generoso con la categoria allo scopo di sistemare l'alloggio. E sentite la fine dell'articolo di Feltri. Tra alcuni giorni scoppierà il bubbone? Cari lettori, il bubbone forse è già scoppiato. Conteremo insieme i morti e i feriti, i ladri e gli onesti, e vi terremo informati. Libero invece in prima pagina, Silvio reagisci o finisce male. Non è Tangentopoli, scrive Maurizio Belpietro, ma se non si tratta anche di un sistema del 2002, del 92, fa schifo lo stesso. E poi Belpietro per esempio ricorda di recente, per esempio, due cose ho ricordato, mi hanno fatto pensare qualcosa, due proposte di parlamentari del PDL, il primo per consentire ai guidatori di auto blu di violare il codice della strada senza rischio di perdere i punti della patente, la seconda, un altro parlamentare di centrodestra che si è lamentato delle multe ricevute per aver passato i varchi che delimitano il centro di Roma con la propria auto. Già nel paese è diffusa la convinzione che il Parlamento sia la casa di una casta di privilegiati pagati molto per fare poco. Aggiungete i fatti di Scajola e amici, infine arrivano le leggi salvapunti e levamulte. A scanso di equivoci mi sento di dare un suggerimento. Occhio Silvio, mettici una pezza, se no qui finisce male. Uomo avvisato. E questo è Maurizio Belpietro che pubblica La Lista. Insomma, il clima non è bello. Il manifesto, truppe d'appalto, mette proprio la foto di questo finto Robin Hood che ieri ha manifestato davanti alla casa di Scajola, puntando con la freccia e arco alla casa appunto di Scajola. Il clima non è bello e poi la percezione della casta. Uno legge Il Sole 24 Ore a pagina 8. Il governo si taglia lo stipendio, dice. Oh, finalmente una bella notizia. Il governo si taglia lo stipendio. La mossa dell'esecutivo, il 5% in meno per premier e ministri. 5% in meno. Ah, però siamo in Gran Bretagna. Prima mossa dell'esecutivo britannico, cioè Cameron, con un gesto, sì, simbolico, 3 milioni di sterline, un po' al risparmio. Sì, dimenticavo di dirlo, il governo si taglia lo stipendio, è in Gran Bretagna. Prima mossa dell'esecutivo britannico, il 5% in meno per premier e ministri. Per carità, non facciamo populismo, ma registriamo la notizia. Primo giorno di governo per Cameron, si è tagliato il 5% dello stipendio. Allora, il clima politico trovate anche molto di Lombardo, presidente della regione Sicilia, che reagisce, ma che richiesta d'arresto. Io sono un presunto indagato, presunto inquisito, presunto arrestato, tutto presunto, solo sui giornali, è una manovra di chi? Lombardo dice è di Berlusconi che vuole recuperare la Sicilia andando al voto. C'è anche un'intervista che registro di Confalonieri, presidente di Mediaset, che parla ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, pagina 9. Punire la corruzione, i ministri facciano il mutuo, anche con Falonieri. Che idea si è fatto dello scandalo delle case non è una bella cosa. Facessero un mutuo come tutti, dice con Falonieri. Poi la lista Anemone, bisogna distinguere se uno ha commissionato dei lavori e li ha pagati, non c'è niente di male. Se li ha fatti in cambio di favori è un altro discorso. Vedete che anche, voglio dire, con Falonieri che parla di queste cose, i ministri facessero un mutuo, non è un bel clima. Ci sono anche problemi di vizio, di avidità nell'entourage di Berlusconi? Chi può escluderlo? I ministri non guadagnano molto, ma hanno uno status e soddisfazioni che dovrebbero bastare che si accontentino. Detto questo, attenti a disconoscere il lavoro di un Bertolaso. Poi vabbè, con Falonieri parla di tutto, Veronica e Silvio. Conosco Veronica da 25 anni, l'ho sentita anche di recente. Forse lui è stato un marito discutibile, ma un padre meraviglioso. Dunque non presenti Silvio come una persona diversa da quello che è. Poi parla della Mondadori, gestita bene. Il Milan, ci vogliono troppi soldi, troppo difficile, investono i petrolieri e il nostro petroliere è Moratti. Il 22 maggio ti farai Inter o Bayern? Senta, io ho visto il Milan anche in Serie B. Ho visto la Cavese spugnare San Siro. Vuole che tifi Inter? Il tifo è anche gufare. Qui sono d'accordo, scusate interisti. Berlusconi punta al Quirinale? Non lo vedo. Berlusconi è fatto per ruoli operativi. Al Quirinale non sono mai andati leader, ma figure di compromesso. E poi sul conflitto di interessi, certo che c'è, ma ormai è endemico. Scegli Berlusconi e prendi tutto. C'è anche la libertà di stampa. Questi poveri diavoli che gridano alla dittatura non fanno certo il gioco della sinistra, perché un italiano legge queste classifiche in cui il suo paese viene dopo il Burundi e gli girano. Confini come finirà? Devono andare d'accordo. Infine, l'ultima battuta anche per Gomorra, no? Sapete che Silvio Berlusconi ha detto Gomorra lede l'immagine dell'Italia all'estero. Gomorra, un'opera coraggiosa, un utile shock. Così parlò Confalonieri, il traffico. In primo piano. E allora, più tasse per le regioni in rosso, cari abitanti di alcune regioni che sono il Lazio, la Campania, il Molise e la Calabria, arrivano tempi duri per quel che riguarda le tasse. Perché? Perché la sanità va male. Oddio, a dire la verità, la sanità va male in tante regioni, come si legge a pagina 3 del Sole 24 Ore, va male, sì certo, in Lazio il deficit è di 10 miliardi di euro, in Campania di 6 miliardi. Ma anche in Sicilia 3 miliardi e 600 milioni, in Puglia 1 miliardo e mezzo. Però queste regioni sono stati ricevuti i governatori, sono tutti tra l'altro di centrodestra, però il governo è stato molto netto e molto secco. Basta coprire con i fondi FAS, vale a dire il fondo per le aree sottoutilizzate, i buchi della sanità. Se non c'è un piano di rientro efficace e non è stato giudicato efficace, queste regioni devono alzare le tasse ai propri cittadini. Perché questo ha anche prove di federalismo, nel senso che ovviamente ci sono i governatori del nord che dicono è giusto così, è inutile che dobbiamo sempre pagare noi regioni virtuose i fondi a piedi lista, con spese a piedi lista delle regioni che non fanno nulla e anzi sperperano e non hanno piani di rientro. Noi siamo virtuosi e i soldi ce li teniamo, lì aumentino le tasse. No del governo all'uso dei fondi FAS, governatori costretti ad elevare le addizionali. A pagina 3 del Sole 24 Ore c'è anche Gianni Trovati che spiega questo cosa comporterà, soprattutto nel Lazio. In Lazio, dove già il fisco regionale è quello più salato, con 1.265 euro medi che vengono chiesti a ogni abitante, quindi si viaggia sul livello superiore del 54% rispetto alla media nazionale, potrà costare circa 65 euro ad abitante, a bambini compresi, 65 euro ad abitante, l'aumento di che cosa? La nuova cura antideficit somministrata ieri mattina dal governo alle regioni con la sanità in rosso. In Calabria invece, Molise e Campania, 30-35 euro per residente. C'è anche un'intervista al ministro della salute Ferruccio Fazio, fatta da Roberto Turno, che dice i FAS non sono dei bancomat per chi è in deficit. Si è in deficit, vieni qua, prelevi al bancomat, basta. Abbiamo detto che i piani delle quattro regioni fanno acqua da tutte le parti, le verifiche fanno capire che la necessaria correzione strutturale non c'è e dunque intanto c'è il rischio di bastonata fiscale. Roberto Cota e Luca Zaia, due leghisti, Piemonte e Veneto, dal nord, a pagina 9 della Stampa, dicono bene. Il Nord non deve pagare per gli errori degli altri. Il Piemonte sta facendo dei sacrifici, dice Cota. La spesa sanitaria la stiamo contenendo. Posso capire i governatori del Sud che si sono appena insediati, hanno ereditato situazioni disastrose, ma basta favoritismi. Non posso che schierarmi col governo. Uguale così, dice Zaia. Mentre la Polverini, che si trova questa patata bollente, insomma, di questo grave deficit da gestire, in due interviste, una ad Avvenire, si impegna: non imporrò ticket, la mia promessa, non pagheranno i cittadini. Certo, bisognerà vedere come. Allora, veniamo ad alcune segnalazioni conclusive. La prima è questa. Sapete che c'è una battaglia sportiva e non solo tra Roma e Venezia per l'aggiudicazione, per la candidatura di una città italiana alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi del 2020. Mercoledì ci sarà l'annuncio, ma dice il Corriere della Sera: Roma meglio di Venezia. Secondo la commissione di valutazione tecnica del CONI, ha vinto Roma. L'annuncio sarà mercoledì, ma insomma a pagina 31 del Corriere viene dato come certo, e cioè che Roma è considerata una città che garantisce più certezze di Venezia. Roma nel suo DNA il talento, la forza di ospitare grandi eventi, da quelli sportivi a quelli politici. E dunque, se ci sarà una candidatura, perché tra le varie proposte è che il CONI potrebbe anche decidere né Roma né Venezia sono candidabili, non ce la fanno. Ma se si sceglierà una candidata, secondo il Corriere, la candidatura è caduta su Roma. Mercoledì ci sarà l'annuncio ufficiale, vedremo. Trovate molto anche sulla caccia, eh? È il nostro sondaggio. La caccia deve essere abolita, parla Letizia Brambilla. Perché ho detto Letizia? Beh, Michela Brambilla. Michela Brambilla parla, la nuova guerra della Brambilla al Quotidiano Nazionale, imbarazzi nel PDL, c'è anche un assessore del Veneto che sarà nostro ospite, cacciatrice, donna, Elena Donazzan, che ha detto si dimetta la Brambilla. Infine l'ultima segnalazione, dovete votare su Radio24.it, ne parliamo alle 8.30. L'ultima segnalazione da Repubblica, pagina 24, è sparita la bici, una bicicletta dell'imprenditore della Zanatta Vetro, azienda di Montebelluna. Sparisce la bici del titolare dell'azienda e viene affisso sulla bacheca aziendale questo annuncio: non si trova più la bicicletta del titolare dell'azienda. Ricordiamo a tutti di far sì che ci sia il ritrovamento. In caso negativo sarà trattenuta a tutti la cifra di 500 euro a fine mese. Beh, la bicicletta è indubbiamente costosa, non so quanti siano i dipendenti. Per carità, io ci sorrido. In realtà il titolare dell'azienda, che non ha voluto far commenti, dice solo: non l'ho scritto io quel biglietto. I sindacati si sono infuriati: o si trova la bicicletta del titolare dell'azienda o vi faccio una trattenuta alla Zanatta Vetro. Alla faccia della trattenuta, 500 euro a fine mese, non voglio sapere quanti sono i dipendenti. Certo, se tanto mi dà tanto, la bicicletta era molto costosa. Sono le 8:17 minuti, ben ritrovati con 24 Mattino, è il momento della nostra Valentina Furlanetto. Soldi e dintorni. Fa strani gesti. Come Deborah Rosciani, che ha preso questa cosa del volume della cuffia. Che devo fare? Alzare, senti bene? Alzare. Sento bene. Grazie Alessandro. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Allora Alessandro, oggi parliamo di risparmio, insomma a una settimana dal grande tonfo delle borse, no? Una settimana fa. Ve lo ricorderete tutti come è andato venerdì scorso, poi lunedì per fortuna i mercati sono andati un po' meglio, la settimana è stata un po' interlocutoria e quindi stamattina parliamo da qui, ma insomma in collegamento con un ospite, Mauro Pratelli, presidente dell'IT Forum. Buongiorno intanto. Buongiorno. Allora parliamo del convegno dell'11ª edizione dell'IT Forum che si sta tenendo a Rimini, è così? Esatto, questa è l'11ª edizione. Ecco, parliamo di questo, parliamo quindi di risparmio, di trading, lo faremo parlando di mercati in maniera più approfondita, nel senso anche di oro, materie prime, di euro, anche durante Salvadanaio a mezzogiorno, però Pratelli, insomma a Rimini oggi si parla di trading, di risparmio. TradeLink organizza questo congresso insieme a Trading Library e Morningstar, ci saranno seminari, incontri, convegni. A chi si rivolge innanzitutto? Allora, l'IT Forum è la manifestazione più grande e più ampia che esista in Italia sicuramente, c'è chi dice in Europa. In pratica abbiamo fatto la scommessa di mettere insieme sia trading che risparmio gestito, che promotori, per cui l'IT Forum trovate praticamente rappresentata tutta la tipologia possibile e immaginabile di utenti. Andiamo dal piccolo risparmiatore che cerca il fondo migliore su cui investire, al trader che già a quest'ora magari lavora su valute, su mercati ancora già aperti, fino al proprio consulente finanziario, quello che va lì proprio per informarsi e conoscere i nuovi prodotti. 11ª edizione, ieri e oggi. Com'è andata ieri innanzitutto? È stata una serata splendida, devo dire. È andata benissimo, c'era veramente tanta gente e quest'anno, ahimè, devo dire, forse anche complice i fatti della scorsa settimana, c'era molta attenzione nei seminari. Tenga presente che ci sono un'ottantina nei due giorni di seminari e corsi, quindi c'era moltissima partecipazione, molta attenzione, la gente ovviamente ha bisogno di capire cosa succede, cosa deve fare, quindi molto interessata ai relatori, no? Quelli che possono trasferire una conoscenza valida. E infatti, come dicevamo, data anche, come diceva anche lei, data la settimana, a 7 giorni proprio dal tonfo delle borse, ovviamente l'attenzione è molto alta. Perché quest'anno c'è la collaborazione di Fondazione Banco Alimentare Onlus? È la prima volta che l'evento ha un partner che a prima vista sembrerebbe aver poco a che fare con il mondo della finanza. Sì, diciamo che è la prima volta che abbiamo un partner di questo calibro, ma in realtà da sempre IT Forum ha voluto coniugare questo aspetto dell'investimento con attività che fossero benefiche. Noi tutti gli anni ad esempio realizziamo un video CD con la didattica di IT Forum e lo vendiamo, e il ricavato è sempre stato devoluto. Quest'anno, anche in occasione dell'anno internazionale di supporto e solidarietà, abbiamo preferito estendere questo concetto alla Banca Alimentare. Il concetto è un po' questo: chi viene ai T-Forum tutto sommato lo fa per capire come meglio investire il proprio denaro, poco o molto che sia, e riteniamo che in quel momento sia anche giusto, no, pensare che una parte del proprio denaro può anche dedicarla a chi magari ha problema di cosa mangerà questa sera. Quindi ci sembra comunque un abbinamento che ci sta dal nostro punto di vista. Certo, il Banco Alimentare Onlus, lo ricordiamo, è una Onlus, appunto, un'organizzazione senza fine di lucro, attiva da oltre 20 anni nel recupero delle eccedenze alimentari. Nel 2009 ha raccolto 78.000 tonnellate di cibo, che poi provvede a redistribuire gratuitamente a oltre 7.000 enti caritatevoli che assistono 1.300.000 poveri in Italia. Questo per chiarire a chi magari non lo sa. Cosa può trovare un piccolo investitore in questa iniziativa di Rimini, Pratelli? Allora, il piccolo investitore trova, mi spiace dirlo, ma tutto, nel senso, immagini un grandissimo menù da cui ciascuno può attingere, o dei singoli assaggi per conoscere almeno un poco determinate problematiche, quindi come investire, quali sono i fondi migliori, come si fa trading, quali sono le tecniche di analisi, oppure troviamo chi già conosce determinate cose, preferisce approfondire determinati argomenti, quindi è il luogo ideale. Un collega un giorno disse: è sufficiente un viaggio un giorno a IT Forum, stare 2 giorni a IT Forum per avere per un anno la panoramica completa dell'offerta delle SIM, dell'offerta dei fondi, delle nuove tecniche di analisi, dei nuovi libri, dei nuovi corsi. Ecco, è un'immersione totale in tutto quello che c'è da sapere su questo argomento. E l'investitore tipo che viene da voi è il semplice investitore, magari casuale, oppure sono persone che hanno una competenza più tecnica? No, è molto rivolto al pubblico, nonostante guardando il programma si possa avere l'impressione magari che ci siano argomenti anche molto sofisticati, e ci sono trattati anche argomenti sofisticati, però devo dire che il grosso del pubblico, se escludiamo i promotori, i consulenti finanziari, i professionisti, quelli chiaramente lo fanno di mestiere, il grosso sono investitori piccoli, medi, ma anche grossi, che cercano appunto di migliorare la propria conoscenza. Tenga presente che soprattutto in questi ultimi anni è un po' cambiato, diciamo, l'atteggiamento dell'investitore. In passato, o fino a poco tempo fa, c'era più attenzione al reddito, alla resa, cioè cosa mi rende di più. Ora invece l'investitore è molto molto più interessato ovviamente alla protezione dal rischio, che è comprensibile. Ma visti i tempi. Sì, esatto. E quindi in questo periodo sono strapieni ovviamente gli incontri in cui si spiega meglio magari come diversificare il proprio portafoglio, come gestire meglio. E quindi le domande che maggiormente vi vengono rivolte quali sono? Come proteggere il capitale? Sì, diciamo che da parte del piccolo risparmiatore ci sono sempre le due tensioni opposte. Da una parte è come seguire un pochino il sogno dell'alto rendimento, diciamo, facendo mai lavorando in borsa, ma con una parte di capitale piccola, come si dice sempre, no? Per limitare i rischi. D'altra parte è conoscere la gamma sempre più ampia comunque di prodotti diversi per tutelare il proprio capitale, perché comunque magari sono pensionati, no? Persone che hanno una vita, che lavorano per mettere da parte qualche cosa. La cosa più importante è non perderli, ovviamente, questo è l'interesse più grande. Ma, ci faccia un po' l'identikit di chi viene a Rimini con l'intenzione di fare delle domande: più uomini, più donne, più giovani, più persone di mezza età? Allora, devo dire che in gran parte sono uomini, e questo, ahimè, mi dispiace, diciamo, no? Perché gradiremmo un po' di conferma uno stereotipo un po'. Sì, diciamo che tra l'altro facciamo delle statistiche abbastanza accurate sui nostri visitatori. Comunque l'85% grosso modo di investitori che frequentano i primi sono uomini, insomma. Mediamente la fascia più rappresentata è quella che va dai 30 ai 50 anni, grosso modo, ma abbiamo notevole presenza anche di giovani, poi ci sono ultra settantenni, quindi diciamo la gamma è molto ampia, però quella centrale sicuramente è quella più presente. Normalmente il livello di istruzione è medio-alto, normalmente. Però essendo una manifestazione che offre così tanto, mi sembra di descrivere un campione produttivo. In realtà è un raduno generale di tutti quelli che a qualsiasi titolo effettivamente si preoccupano dei propri risparmi o di come investire il proprio denaro. Secondo lei il successo di quest'anno, che testimoniava con l'afflusso di ieri, no? È dovuto a quanto sta accadendo ai mercati in questi giorni? È legato a questo? Ma io direi che dopo 11 edizioni posso dire che no, non è questo. Cioè ormai sento anche un po' il commento dei giornalisti, degli sponsor, dei visitatori, dei tiforum è diventata una tappa obbligata. Poi è evidente che una maggiore turbolenza sui mercati spinge qualcuno in più a muoversi. Tenga presente che Rimini non è la piazza di Milano, se lei organizza una manifestazione a Milano ha un bacino locale molto ampio a cui attingere. A Rimini ci si viene, ai tiforum ci si viene per forza. Certo, per questa motivazione. Grazie a Mauro Pratelli, presidente quindi di IT Forum. Parleremo di mercati, Alessandro, anche a Salvadanaio. Oggi ovviamente faremo un po' un bilancio della settimana, visto che è venerdì. Giustamente, grazie. Allora Valentina Furlanetto, lunedì torna Deborah Rociani. Torna Debora. Bene, allora noi parliamo di caccia, perché il ministro Brambilla, Michela Brambilla, ha detto la caccia dovrebbe essere abolita e dovrà essere abolita. Polemiche ovviamente, che ne pensate? Siete d'accordo? La caccia va abolita? Allora, alle 8:33 minuti nel nostro sondaggio di oggi parliamo di caccia. La caccia, perché ieri il ministro del turismo Brambilla ha detto non solo si può, ma si deve abolire la caccia. Che ne pensate? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Nel nostro bianco o nero. Allora, siete d'accordo con il ministro Brambilla? Bisognerebbe abolire la caccia? C'è da dire che dovete votare su radio24.it. Per ora prevalgono i sì al 59%. Allora, la caccia divide molto. Io ho preso qualche frase che la nostra Sara Spreafico ha recuperato, una breve rassegna stampa, anche i VIP. Flavio Tosi, sindaco di Verona, su Libero, cacciatore, la caccia è un'arte nobile e antica. E poi perché nessuno difende i pesci? Sono muti e non cinguettano, per questo danno fastidio. Umberto Veronesi, l'attività venatoria non dovrebbe esistere in un mondo civile. Non penso che si dia sfogo agli istinti violenti e primordiali chi fa la caccia. Oppure ieri Vittorio Feltri, che era a fianco del ministro Brambilla. Vittorio Feltri, ma se uno non ama gli animali come fa ad amare, che ne so, una zia? Allora voglio salutare Carlo Consiglio, buongiorno. Buongiorno. Lei è il presidente della Lega per l'abolizione della caccia, è stato anche esatto. Professore di zoologia alla Sapienza di Roma. Saluto anche dall'altra parte il senatore del Popolo della Libertà, Franco Orsi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Lei è anche sindaco di Albissola Superiore, Savona, è anche cacciatore? Anche cacciatore. Anche cacciatore. Allora, Carlo Consiglio, eccoci qua, inizio da lei. Perché andrebbe abolita la caccia? C'è chi dice perché danneggia l'ambiente, c'è chi dice banalmente perché l'animale è un essere vivente e non va ucciso. Lei da che parte sta, insomma, da tutte e due queste istanze? Ma la caccia dovrebbe essere abolita perché ormai è diventata una cosa anacronistica. Non ha più senso perché non serve più all'alimentazione. Praticamente si va a ammazzare gli animali per puro divertimento. Mi piace di ricordare delle definizioni che sono state date della caccia. Cioè, Wolfgang Goethe, il grande poeta tedesco, che ha detto la caccia è sempre una forma di guerra. E poi Theodor Heuss, primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, ha detto la caccia è una forma collaterale della malattia mentale umana. Cioè la caccia è una cosa per malati mentali. Addirittura. Addirittura, sì. Mannaggia, no, è forte come posizione, ma perché, voglio dire, Orsi, risponda subito a questo. Il senatore Orsi, tra l'altro, è stato uno di quelli definiti, insomma, vicini al partito delle doppiette, possiamo dirlo così, no? Che ha voluto anche questa riforma della caccia, che ha fatto molto discutere questa riforma comunitaria, ma non stiamo parlando di questo, qui parliamo dell'abolizione in sé della caccia. Perché? Ha sentito? Mi permetta di tirare l'acqua al mio mulino rispetto alle citazioni. Certo, citi quasi anche tutti lei. I libri di Ernest Hemingway esaltano l'attività venatoria come arte. Ken Follett, Wilbur Smith, Il giorno del leone. Abbiamo la storia d'Italia e grandissimi personaggi della storia d'Italia e dell'umanesimo che furono cacciatori, per cui citazioni a pro e contro credo che ne troviamo da entrambe le parti. E che consiglio dice anacronistica, perché insomma la caccia è nata per proprio procacciarsi il cibo, ora forse ci sono altri metodi. Rispetto a questa affermazione ci sono degli elementi di verità, nel senso che il ruolo della caccia moderna è diverso rispetto al ruolo che la caccia aveva nella società primordiale. Fermo restando che non va sottovalutata la componente alimentare legata al prelievo venatorio, credo che, e questo poi ci aprirà anche magari alcune affermazioni del nostro ministro, il Trentino Alto Adige e tutto l'arco alpino che è riconosciuto in Europa come il modello di eccellenza dal punto di vista dell'accoglienza turistica, all'interno del pacchetto ha certamente una particolare offerta alimentare, la sella del capriolo, i medaglioni di cervo, le costine, che rappresentano una grandissima attrattività, e i quasi 800.000 ungulati che vengono abbattuti ogni anno finiscono sulle tavole di cittadini e di ristoratori. Non in quelle di Carlo Consiglio, ma Consiglio reagisca, qua ha sentito parlare di medaglione di cervo, di costine, insomma, che effetto le fa lei? A parte che sono le 8:30, magari. Consiglio, è svenuto Consiglio. Consiglio, buongiorno, ci sente? Sì, la sento. Che effetto le fa, insomma, a sentire le costine, i medaglioni di cervo? Ma a me non fa nessun effetto, io non le mangio e basta. E anche per ragioni etiche, poi perché sono vegetariano, anche per ragioni diciamo di salute e molte altre cose. Poi diciamo, a proposito che parliamo di cervi, che in realtà si dice tanto che i cervi sono troppi, che poi invece si sa che le popolazioni di animali si regolano da sole, perché c'è una legge della cosiddetta capacità portante. Quando una popolazione di animali raggiunge la capacità portante, le nascite eguagliano le morti, e quindi non c'è nessun bisogno che l'uomo intervenga ad abbattere degli animali. Quindi dice anche questo, questa autodifesa dei cacciatori, che dicono facciamo anche per preservare l'ecosistema, per dare un equilibrio insomma all'ambiente. Lei, da professore di zoologia, dice no, porta acqua al suo mulino e dice non serve a nulla. E poi volevo dire anche che la caccia reca, oltre al fatto di sottrarre degli animali che invece noi naturalisti vorremmo invece poter osservare liberamente, il fatto che gli animali si sentono minacciati fa aumentare la cosiddetta distanza di fuga, cioè quella distanza alla quale, avvicinandosi l'uomo, l'animale fugge. Allora questi animali di fatto hanno paura, e quindi noi naturalisti non possiamo più osservarli a nostro agio. E poi questa caccia arreca anche oltre al fatto di sottrarre animali, arreca anche un disturbo, perché gli animali non possono pacificamente nutrirsi perché vengono disturbati dall'arrivo del cacciatore. Prendiamo per esempio le anatre, che sono i cacciatori che sparano e naturalmente ne colpiscono uno o due, però tutte le altre si alzano in volo e girano per cercare disturbo. Un posto più chiaro, sicuro. Insomma. Allora dice creano disturbo. Insomma, lei, Carlo Consiglio, dice non va bene la caccia. Qui c'è il senatore Franco Orsi. Io voglio salutare anche l'assessore Elena Donazzan. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi. Assessore in Veneto all'istruzione, lavoro e formazione. Sì? Cacciatrice, bisogna dire anche. Genere si dice. Si dice le doppiette, soprattutto un mondo molto maschile, no? E invece è così in prevalenza? Assolutamente non è vero. È vero che oggi c'è una maggioranza tutta al maschile, ma devo dire che noi donne ci stiamo avvicinando al mondo della caccia e ci sono peraltro esponenti del gentil sesso che fanno molto bene, sono grandi cacciatrici, conoscono l'ambiente molto meglio di qualche sedicente ambientalista. Senta, assessore, se leggete oggi i giornali, io l'ho detto in rassegna stampa, tira un po' una brutta aria per quel che riguarda la situazione politica, ma di certo non per la situazione della caccia. Però lei è arrivata a chiedere le dimissioni del ministro Brambilla, che è del suo stesso partito, per questa uscita. Da esponente proprio del Popolo della Libertà. Io ho ben chiaro che quando ci si pone di fronte all'elettorato, lo si fa certamente con le proprie posizioni personali, ma prima ancora all'interno di un partito e aderendo ad un programma di governo. Alle ultime elezioni il Popolo della Libertà si è presentato a tutti gli italiani con un programma ben chiaro, molto evidente era il passaggio sulla modifica alla legge 157, che è la legge nazionale sulla caccia, perché questa fosse adeguata alle normative europee e comunitarie. Non certo c'era l'abolizione. Anzi, senatori, sì, certamente non si parlava di abolizione, forse esattamente il contrario. Però voglio dire, il ministro Brambilla, sappiamo, non è neanche il ministro all'ambiente, no? Il ministro del turismo, sappiamo le sue posizioni sono molto dettate da una forte matrice animalista, no? Lei ama gli animali in tutti e quindi io rispetto le posizioni personali di ciascuno. Ecco, in questo caso forse è Michela Vittoria Brambilla che non rispetta le mie e quelle dei tanti appassionati cacciatori, non cacciatori ma difensori della caccia. Tra le tante citazioni, guardi, io le do da vicentina quella di Mario Rigoni Stern. Tutt'altro che anacronistico, perché uomo del nostro certo. tempo diceva della caccia che è una grande tradizione, un grande equilibrio ambientale. Allora io dico a Michela Vittoria Brambilla che le sue opinioni personali sono legittime come quelle di ciascuno. Quando parla da ministro, ancorché ministro non all'ambiente piuttosto che non all'agricoltura, deve fare attenzione perché è ministro di un governo che si è preso degli impegni molto chiari nei confronti del mondo venatorio. Tra l'altro qualcuno ci scrive non è peggio allora mangiare gli animali in allevamento? Io mangio solo selvaggina almeno, ma preferisco mangiare un animale che ha vissuto in libertà e con dignità. Insomma, le posizioni, vedete, sono molto, molto variegate. Le citazioni le abbiamo fatte più o meno tutte. Sentiamo il primo ascoltatore all'800 24 00 24. Andrea da Pesaro, c'è un eco devastante. Andrea deve spegnere la radio. Ecco, bravo. Ho spenta, buongiorno. Dica. Io la sento piuttosto male, spero che lei... Io benissimo, bene, benissimo. Bene. Allora, io sono un agricoltore, cercherò di essere molto rapido, visto che credo che i tempi siano ristretti. Io sono un agricoltore che da 14 anni ha avuto la vita praticamente sconvolta da una specie di animali che sono i cinghiali, che all'interno della provincia di Pesaro scorrazzano dalle montagne al mare e che hanno, come dire, un tipo di retroterra socioculturale, politico soprattutto, tale per cui non si può fare nulla. Cioè, non è che il cinghiale ha un retroterra socioculturale. Forse non il cinghiale, ma il mondo, diciamo, sì, il mondo siamo... legato alla... Cioè sono intoccabili per una certa, dice, una certa, quale tipo di società, quale retroterra culturale c'è dietro? Il retroterra più retrivo, più incolto di un certo mondo venatorio, che è organizzato in vere e proprie squadre, che sono come delle piccole commandos che vanno a espropriare in maniera anche molto, molto spesso contro la legge, nel senso che ci sono delle regole, c'è una legge sulla caccia. Io non sono un cacciatore, faccio l'agricoltore, però io fino al 1997 avevo 37 anni, adesso ne ho 50, non avevo mai visto un cinghiale. Dal 1997 non c'è notte durante i periodi in cui per esempio c'è la coltivazione del mais, che a me serve per sopravvivere e per tenere in piedi la mia azienda, non si incontrino branchi di cinghiali, nonostante siano 14 anni. Ma ho capito, ma lei, c'è, nel senso, giusto per essere brutale, ce l'ha col cinghiale o ce l'ha con i cacciatori? No, io ce l'ho con i cacciatori, il cinghiale non mi ha fatto nulla, non è una bella bestia, non mi è particolarmente simpatico, anche perché i cinghiali dicono, io non sono uno scienziato, ma insomma sembrerebbe, credo che il professore mi potrà confermare, che i cinghiali che ci sono adesso, che sono strumento di caccia, non hanno più nulla a che vedere con uccellieri autoctoni che c'erano qua e che si sono vabbè, insomma, ce l'ha col problema dei cacciatori che secondo lei non rispettano le leggi nella zona dove è. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, abolire la caccia come vorrebbe il ministro Brambilla? Il 60% di voi dice di sì. C'è Umberto Veronesi che dice: tutti i sondaggi, se li fanno, dicono che la gente, gli italiani, la maggioranza degli italiani per l'abolizione della caccia, visto che i cacciatori sono circa 1 milione, qualcuno dice 710.000, chi lo sa, quindi sono una minoranza. Sentiamo. 800 24 00 24. Giulio, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno a lei. E da che parte sta? Io chiaramente sto dalla parte dei cacciatori. Io sono il presidente provinciale dell'associazione cacciatori lombardi di Como. E quindi chiaramente sto dalla parte dei cacciatori. Certo. E perché? Sto dalla parte dei cacciatori perché, vede, rifacendomi a quello che stava prima dicendo l'ascoltatore, non ho sentito tutto il suo intervento, lui se la prende con i cacciatori per l'aumento dei cinghiali, quindi effettivamente l'analogia è subito fatta: se ci sono cacciatori e ci sono più cinghiali, tanto deleteri per la selvaggina teoricamente non dovremmo essere. Soprattutto per parlare di caccia ci vuole una profonda preparazione, i nostri politici dovrebbero smetterla di parlare di caccia dai loro salotti, così facendo si allontanano neanche di parecchio da quello che siamo noi viviamo il territorio e con la maggior parte degli agricoltori, che non è da dimenticare, non c'è da dimenticarsi, ci danno il permesso di poter cacciare sui loro territori, abbiamo un rapporto splendido, nei comitati di gestione ci sono le rappresentazioni degli agricoltori. Sì, ho capito, ma lei dice le istanze, le leggi, ma qui c'è una posizione molto chiara e netta, cioè il ministro Brambilla dice: per me uccidere un animale, poi si possono fare tutte le discussioni, l'ecosistema, cioè per me uccidere un animale è una cosa sbagliata. Questa è una posizione, capisce, inconciliabile, vi potrete trovare in tutti i salotti che vuole, Giulio, ma insomma... No, guardi, dottor Mila, è subito detto, a meno che il ministro Brambilla non si nutra solo di cetrioli che cadono di vecchiaia dalle piante, il ministro Brambilla mangerà carne come ma il 90% degli esseri non umani. Non credo, io non lo so, non credo. Un professor Veronesi, per esempio, dice: io non bisogna uccidere gli animali e sono vegetariano per motivi etici proprio, no? Cioè, non è che il professor Veronesi va a comprarsi la fettina di carne al macellaio, cioè no. Comunque insomma le posizioni sono queste, insomma, poi si può discutere. Giulio, la ringrazio. Senatore Orsi, è nato anche un dibattito di recente se la caccia sia di destra oppure di sinistra, dopo che per esempio il ministro Brambilla aveva detto: non siamo più il partito delle doppiette, il PDL non lo sia più, insomma, il centrodestra. Ma guardi, io vorrei provare a articolare un piccolo ragionamento. Il primo ragionamento è quello che questo governo ha cercato, e fino ad oggi, a parte le parole del ministro Brambilla, lei verificherà che questo comportamento è rigoroso, di evitare che ministri esprimano loro opinioni, naturalmente personali, ma che hanno natura politica sulle competenze altrui. Cioè è finito, o doveva essere finito, il teatrino di Pietro, ministro dei lavori pubblici, che parlava di giustizia, Mastella che parlava di lavori pubblici o di ambiente. E qui invece ha fatto un'invasione di campo, dice. Questa è una questione sulla quale, se poi ci sono reazioni anche forti, come quella dell'amica assessore Veneto, all'interno del partito, credo che alla fine, quando un ministro parla, non lo faccia mai o non lo debba fare a titolo personale, perché impegna dal punto di vista politico lo schieramento che sostiene. E quindi io condivido le censure nei confronti del ministro Brambilla, che parli di turismo, e l'opinione del governo e la posizione del governo si è espressa dai ministri di competenza. Se no riprendiamo quel teatrino nel quale abbiamo, diciamo, assistito a qualche anno in cui non c'è riconoscibilità tra linea politica. È per questo, assessore Donazzane, è per questo che lei ha chiesto le dimissioni, cioè si occupi di turismo e non d'ambiente. Esattamente, anche perché il turismo ne ha tanto bisogno. Io penso e spero che al ministro Brambilla venga l'idea di darne come priorità a tutti. Io sono anche assessore al lavoro, le garantisco che il problema oggi occupazionale forse quello prevalente in Italia. Aggiungo che tutti i referendum fatti contro la caccia hanno dato esito negativo, quindi con buona pace di tutti coloro che dicono che ci attribuiamo noi la maggioranza a prescindere a seconda delle opinioni di dove sta la maggioranza degli italiani. Ripeto, il Popolo della Libertà si è presentato con un programma di governo, abbiamo raccolto un certo numero di voti, tanti per cui siamo arrivati al governo. Al ministro Vanvila dico, o fa il ministro del turismo e lavora per questo, o che taccia, insomma, altre cose può anche evitare di dirle. Insomma, vedete come il senatore Orsi impegna il governo. I cacciatori sono molto arrabbiati. Carlo Consiglio, lei è in minoranza, quindi insomma 2-1, però il 61% per ora dice aboliamo la caccia, anche di chi vota Radio24.it. Secondo lei è una battaglia che vi vede in prima fila, ce la farete, oppure una battaglia che non vi vedrà mai vincitori? No, è una battaglia che avverrà, perché come ho detto la caccia è un anacronismo, quindi la caccia sarà abolita anche se noi non facciamo nulla, perché a un certo punto diventa superata dalla mentalità della gente. Quello che ha telefonato per primo ha parlato dei cinghiali, e questo è un argomento molto di attualità, perché c'è stato questo episodio recente di questo cacciatore di cinghiali che ha ucciso due guardie zoofile e poi si è suicidato. Sì. E volevo dire che questo problema dei cinghiali è soprattutto responsabilità della caccia, perché sono stati immessi cinghiali a scopo venatorio in zone dove non c'erano, e sono stati fatti ripopolamenti con cinghiali di razze strane e anche cinghiali ibridati con maiali. Ora si sa che il maiale è la forma domestica del cinghiale. Tutti gli animali domestici sono più prolifici del loro antenato selvatico. Vabbè. E quindi anche il maiale, insomma, è più prolifico del cinghiale. Lei dice che comunque il cinghiale è più prolifico del cinghiale. Si arriverà a questa abolizione. Lei consiglia, devo fermare qui. C'è anche chi ci scrive, Andrea Caccia di giornalisti, li darà in pasta da avvoltoi, soprattutto a Radio 24. C'è il direttore Gianfranco Fabi che mi guarda al di là del vetro, dice: arrivano i cacciatori di giornalisti a Radio 24. Bene, ci fermiamo qui perché il nostro direttore conduce oggi al posto di Oscar Giannino. E allora Sara Spirafico in redazione, Peter Bescapè in regia, grazie anche a voi. Potete scriverci bianco o nero @radio24.it. A lunedì.